Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Abbiamo parlato spesso di calciatori e in genere abbiamo parlato di calciatori anomali, calciatori capaci di dribblare mezza squadra avversaria, calciatori pazzi, calciatori estrosi, calciatori artisti. Però oggi noi vogliamo raccontare la storia di un calciatore diverso, un'altra storia che secondo me piacerà molto anche alle donne, perché qui non si parla solo di calcio, si parla di cuore, si parla di sud, perché oggi parliamo del ragazzo venuto dalla Calabria, Rino Gattuso. Greci, arabi, normanni, pure loro sono venuti qua. Mica scemi. Questo panorama, nata stagione sta per cominciare. E io vi voglio a Rumasso. Simono Calabrese. Sole, mare, arte, tradizione. In Calabria c'è tutto. Ma Guagnù, siete disposti a metterci questo? Calabria, noi ci mettiamo il cuore. Questa era la voce di Rino Gattuso in un celeberrimo e bellissimo spot del 2009 che lui fece per promuovere il turismo in Calabria. La Calabria, sì, è una regione difficile, forse la più difficile d'Italia. È un posto dove non trovi lavoro, dove spesso devi fare le valigie, andare lontano, andare a Milano, a Torino o in Germania o in Svizzera o ancora più lontano. E così hanno fatto anche i genitori del nostro protagonista, Gennaro Ivan Gattuso, classe 1978, da Corigliano Calabro, provincia di Cosenza, frazione di Schiavonea. È un borgo di pescatori che conosco molto bene, poi vi spiegherò perché. È un posto dove i bambini passano le giornate intere sulla spiaggia a tirare calci al pallone, e anche Gattuso è uno di questi bambini che sulla spiaggia sogna un giorno di giocare con la maglia della sua squadra del cuore, il Milan. Abitavo in un 5 metri dal mare, avevo questa casetta piccolina che tuttora ce l'abbiamo, e ricordo che scendevo sempre col pallone in mano, andavo sulla spiaggia, tornavo dopo 5-6 ore, mamma mi chiamava dal balcone, Rino. Il calcio è una passione di famiglia. Il padre Franco è arrivato alla Serie D e naturalmente quando vede giocare il figlio, che gioca molto bene rispetto ai suoi coetanei, lo aiuta, lo segue, si mette in mezzo perché la madre vorrebbe che lui si dedicasse allo studio più che al calcio, però certe passioni non si possono trattenere. Così arriva una richiesta di andare a giocare nelle giovanili di una squadra che sta crescendo un ottimo vivaio. E Gennarino, o come lo chiamano tutti Rino, ha solo 13 anni, prepara le valigie e parte per Perugia, dove c'è uno dei presidenti più strani, direi folcloristici, del calcio italiano, Luciano Gaucci. Padre felice come una Pasqua, mia madre disperazione totale. Mi guardava e mi diceva: tanto non ti mando. Come non mi mandi? Non voleva mandare. C'era questa stanza piccolissima, non vedevo l'ora di che la notte passava e di andarmi a allenare e di far vedere quello che ero capace. A Perugia Gattuso fa amicizia, tra gli altri, con un giocatore che condividerà con lui la maglia rossa del Perugia, ma anche un destino, perché vestirà la maglia della nazionale italiana. Un altro di quelli che giocano col cuore, un altro di quelli molto amati dai tifosi della sua squadra e molto meno dai tifosi avversari. Sto parlando di Marco Materazzi. E intanto il Perugia ha un allenatore che sta facendo un grande lavoro. Si parla di calcio champagne. L'allenatore è Galeone, Giovanni Galeone, che porta il Perugia alla promozione in Serie A. E l'esordio in Serie A arriva nel 97, a 17 anni, contro il Bologna. Però dopo 8 partite giocate con la maglia del Perugia arriva un trasferimento improvviso. Durante la notte Gattuso abbandona il ritiro della squadra saltando da una finestra, scompare nel nulla, nessuno sa bene cosa sia successo, ne parlano anche i telegiornali. Poi, qualche giorno dopo, tutto viene svelato. Ieri il Perugia aveva denunciato la scomparsa del giovane calciatore Gennaro Gattuso. Nessun giallo, in realtà, dietro la scomparsa, un trasferimento all'estero. Gli osservatori del Glasgow Rangers sono venuti in Italia a far compere. E così, oltre al centravanti Marco Negri, acquistano a parametro zero Rino Gattuso, che da un giorno all'altro si trova a migliaia di chilometri dalla Calabria, in Scozia. È una terra in cui lui non conosce la lingua, si mangia in maniera ben diversa dalla Calabria, poi c'è il clima, ci sono abitudini particolari, però Gennaro ha la testa dura, glielo dicono tutti, non ha paura di niente, di nessuno. È da quando faceva le partite in riva al mare che è stato abituato a cavarsela da solo, a farsi rispettare fuori e dentro al campo. I suoi genitori sono stati anche loro degli emigranti, insomma un'occasione così non va lasciata. Glasgow mi ha dato la consapevolezza di poter fare questo lavoro da protagonista, perché arrivare ai Glasgow Rangers e giocare con Jonas Tern, Brian Laudrup, Gascoigne, Mark Etley, tanti giocatori, Amoruso, Porrini, per me mi ha fatto capire che potevo intraprendere quel ruolo, quel modo di giocare a calcio mi poteva portare lontano, mi ha dato la consapevolezza di provarci subito. Eh sì, e poi Gattuso è uno che ha un gioco che piace agli scozzesi, perché è grintoso, gioca col cuore, lo diceva prima, grandi compagni di squadra, tra questi Gazza Gascoigne, che una volta gli fa uno scherzo, è rimasto famoso, lui non sa ancora l'italiano, l'allenatore dice una cosa e Gascoigne traduce a Gattuso e dice: domani c'è un allenamento alle 8 del mattino. Gattuso, ragazzino impaurito, arriva alle 8 del mattino, invece era uno scherzo, l'allenamento era alle 2 del pomeriggio, e Gattuso rimane 6 ore da solo, al freddo. Immaginate questo ragazzino calabrese che sta 6 ore fuori dal posto del ritiro della squadra, perché ha paura a tornare indietro. Però c'è anche un altro aspetto, c'è Monica, è la figlia di un ristoratore italiano di Glasgow e lui va sempre a mangiare lì, i due si innamorano e si sposano. Lui gioca a centrocampo, corre molto, recupera palloni, aiuta la difesa, sostiene l'attacco. 90 minuti passati a combattere con una grinta che impressiona gli scozzesi. Poi però cambia l'allenatore, arriva Dick Advocaat, che preferisce trasferire Gattuso in difesa. Lì, insomma, il gioco cambia, lui non si diverte molto, ma per sua fortuna arriva una telefonata. C'è una squadra italiana neopromossa che è disposta a spendere per lui 9 miliardi di lire per prelevarlo dalla Scozia, è la Salernitana. E così Rino Gattuso prepara di nuovo le valigie e questa volta non scappa dalla finestra, perché in Scozia lascia tanti ricordi e un pizzico di nostalgia. Il falco e il gabbiano. Ci sono tantissimi calciatori che tifavano per una squadra e poi sono andati a giocare, magari diventando anche delle bandiere, in un'altra squadra. Ci sono casi famosissimi. Bene, a Gattuso non capita questo, gli capita molto di meglio, perché dopo un anno arriva una chiamata, ed è proprio una chiamata che parte dalla sua squadra del cuore, perché nel 1998 Gattuso si trasferisce al Milan e conquista la maglia numero 8, sta a centrocampo davanti a una difesa composta ancora da gente tipo Maldini e Costa Curta, e poi c'è Albertini al suo fianco. Insomma, è un grande Milan e lui diventa uno di quei giocatori dei quali il Milan non può fare a meno. E poi nasce il suo soprannome Ringhio, glielo affibbia Pellegatti dopo averlo visto affrontare dei suoi avversari anche a muso duro. Ho sempre pensato che non dovevo inventarmi niente, c'erano gli altri più bravi di me di fare i lanci 30-40 metri. Allora ho sempre pensato di non essere presuntuoso calcisticamente. Per me non c'è cosa più brutta quando becchi un atleta che è presuntuoso. Normale che, se andiamo a fare i paragoni, quando per 14 anni hai giocato in un centrocampo con Pirlo, Seedorf, è normale che ero meno bravo tecnicamente di loro. Però non mi sono mai fermato, ero uno che voleva arrivare a tutti i costi e ho sempre pensato che il lavoro alla fine ti portava a migliorare. Sì, perché i palloni, i lanci si fanno, ma prima qualcuno ti deve dare la palla, deve andarla a recuperare. Forse non ha fatto tanti gol Gattuso, forse non ha fatto tanti lanci millimetrici, anche se i piedi buoni comunque ce li aveva. Certo, in squadra c'era uno come Pirlo, lui fa il lavoro sporco, quello duro, recupera la palla, blocca le ripartenze avversarie. Anche questo può fare di un giocatore un campione, e questo è il nostro caso. La consapevolezza delle proprie caratteristiche diventa un incentivo per lavorare di più, per allenarsi duramente, per compensare magari delle carenze tecniche in un punto a favore di un altro. Dall'altra parte, pericolo, Gattuso! No, gol di Gattuso, no! No, gol di Gattuso, no! Ma gol di Gattuso, no! Dai! Ma dai, ragazzi! Ma dai, l'ha anche presa male con il sinistro! Ma gol di Gattuso non si può vedere, ragazzi! Dai, dai! 5 marzo 2011, il commentatore, questo è un commentatore di parte juventina che non crede ai suoi occhi, perché a Torino il Milan è passato in vantaggio e batterà poi la Juventus con gol di Ringhio Gattuso. È uno che magari di gol ne ha fatti pochi, ma che ha messo davanti a tutti e a tutto la sua squadra. Sull'attaccamento alla maglia del Milan non c'è niente da dire, perché lui al Milan rimane 13 stagioni, tutta la carriera, e con un palmarès notevole: due campionati, due Champions, due Supercoppe europee, una Coppa Intercontinentale, una Coppa Italia, due Supercoppe italiane. Insomma, ne ha fatta di strada il ragazzo da Marina di Schiavonea. Gattuso diventa un idolo della curva rossonera, ma lo diventa intanto perché è indispensabile, è uno di quei giocatori di cui si nota la presenza quando non c'è, cioè quando manca uno come lui la squadra ne risente. Però di lui si ricordano anche gli sguardi inferociti rivolti all'arbitro, le braccia alzate a incitare la curva, le scivolate sui piedi dell'avversario, ma sempre ai limiti all'interno della correttezza, perché Gattuso non ha mai fatto, come dire, falli vigliacchi e cose di questo genere. Ha giocato duro come uno scozzese, e poi magari anche qualche momento di tensione con altri calciatori, con allenatori, con arbitri. Se lo ricorda Jordan, c'è una Milan-Tottenham nel quale Jordan, ex giocatore del Milan, peraltro vice allenatore del Tottenham, si trova faccia a faccia con Ringhio. Un faccia a faccia difficile, perché Jordan sarà alto 30 centimetri più di Gattuso. Bene, i due si mettono a insultarsi in scozzese. Alla fine Gattuso rifila all'ex centravanti del Milan, che era un duro anche lui, una manata che gli costa la squalifica. Ma non c'è cattiveria in questi comportamenti, c'è molto agonismo. Quello che succede nel campo dura solo il tempo della partita, poi tutto viene chiarito e dimenticato. Tra i trofei vinti da Gennaro Gattuso nella sua carriera c'è una Supercoppa italiana che lui vince nel 2011 contro l'Inter. A questa Supercoppa è legato un momento che mi coinvolge in prima persona, perché quella sera io suonavo proprio a Marina di Schiavonea, e suonavo perché mi aveva fatto chiamare lui, e il paese aveva una serie di problemi, non avevano i soldi per fare la festa della Madonna. E Rino Gattuso dice: eh no ragazzi, il nostro paese non deve rimanere senza festa, la festa la pago io. E pagare una festa del genere vuol dire palco, cantante, fuochi d'artificio, allestimenti, sono decine e decine di migliaia di euro. Bene, la sera prima della partita lui mi ha telefonato per chiedermi, lui era a Pechino a giocare la partita, e mi telefona per chiedermi se avevo mangiato bene, se ero andato da Antonio, da Giovanni, come mi avevano fatto mangiare, se mi avevano trattato bene. E lì a Pechino era notte fonda, il giorno dopo doveva giocare questa finale, peraltro vinta dal Milan contro l'Inter. In questi 45 giorni ne ho sentite di tutti i colori, che potevo perdere l'occhio, che non ci vedevo più, tutte queste robe qua. Oggi eravate preoccupati che potevo dire che non potevo più giocare a calcio. Ce ne vuole per abbattermi, io dico sempre che c'è di peggio nella vita, la dimostrazione è ieri, e anche se andiamo in giro per gli ospedali ce ne sono di cose gravi. Io, come dire, sto lottando con un uomo invisibile in questo momento, nel senso che vedere doppio non è bello, però va bene, come dico sempre c'è di peggio, è importante non mollare e guardare avanti. Beh, qui parliamo di un duro, parliamo di uno con le palle, parliamo di Rino Gattuso e stiamo raccontando del momento in cui lui ha dei problemi di vista. Miastenia del nervo ottico si chiama, è una paralisi del nervo ottico dovuta all'affaticamento e quindi c'è un periodo di inattività forzata, un'altra battaglia da combattere che lui vince, ma la vince a 33 anni e lui è tornato in campo dopo questo problema, è ancora pronto a lottare. Il ciclo però di Gattuso al Milan sembra stia finendo, ma non certo il ciclo di Ringhio Gattuso nel mondo del calcio. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di un grande atleta, ma soprattutto di un grande uomo, di un grande uomo del sud. È la storia di Rino Gattuso, centrocampista del Milan per 13 anni, centrocampista della nazionale, e sono 13 anni di successi, di chilometri e chilometri percorsi sul campo sempre a recuperare palloni, un tassello fondamentale del centrocampo. Quando non c'era lui, il Milan andava un po' in apnea. Abbiamo raccontato degli esordi con il Glasgow Rangers e poi 13 stagioni al Milan, trofei vinti. Siamo arrivati al 2012, l'anno in cui Gattuso annuncia che non giocherà più nel Milan. Ma guarda, la scelta della Svizzera un po' è stata una roba strana, perché venivo dalla malattia agli occhi, non sapevo se ritornavo a giocare, a che livelli potevo ritornare a giocare. Sicuramente l'ho fatta anche per i figli, per far imparare la lingua, un posto più vicino a Gallarate, dove ho casa, dove vivo, e la scelta è stata questa. E dopo il presidente Costantin, quando mi ha parlato, mi ha convinto del progetto e ho scelto questo. Ma sicuramente se non venivo dagli 8 mesi di malattia agli occhi, sicuramente potevo fare una scelta diversa. Dopo potevo andare in Giappone, in Cina, in Qatar, in questi posti qua, però ho preferito meno soldi e la tranquillità per i bambini. Eh sì, perché Rino è uno che non è mai stato particolarmente legato ai soldi, o comunque non l'abbiamo mai visto in giro con le super macchine sportive, non è mai stato uno di quelli che ha gettato in faccia i soldi guadagnati agli altri. E sono colpi d'ala silenziosi suoi, che magari non finiscono sulle prime pagine dei giornali. Per esempio, prima vi abbiamo fatto ascoltare lo spot con il quale lui è diventato ambasciatore mondiale della Calabria. Bene, il suo compenso per quello spot è stato di 500.000 euro e lui lo ha donato in 5 parti alle 5 province calabresi per creare progetti di assistenza verso anziani, disabili, insomma per tutte persone che hanno una vita difficile. Ha detto: io sono già ricco e non ho bisogno di arricchirmi ancora, ma quei soldi possono servire a fare star meglio gli altri. E quindi chapeau per Rino Gattuso. Poi c'è la Fondazione Forza Ragazzi, con la quale lui ha costruito campi di calcio dalle sue parti per togliere dalla strada tanti ragazzi, e andare in giro per Corigliano Calabro o comunque Marina di Schiavonea, per quelle zone, e parlare di Gattuso è veramente una bella esperienza, perché ti raccontano una serie di aneddoti tutti belli e fantastici su di lui. Lui a Sion fa l'allenatore giocatore, alla fine del 2013 abbandona il calcio giocato e adesso fa l'allenatore, ma anche da allenatore riesce a dimostrare di essere una persona non comune, perché è assolutamente in prima linea in una vertenza, in una storia calcistica e umana molto delicata, che è quella del Pisa. Perché giustamente qualcuno esce di casa, c'ha figli, c'ha delle problematiche, perché l'anno scorso il 90% dei giocatori giocavano in Lega Pro, non avevano grandissimi stipendi e per loro quello che devono prendere, gli arretrati, sono soldi importanti. Io mi devo discutere di tante altre robe e non parlare del calcio giocato tantissime volte, devo far finta di non vedere. Devo sopportarmi tutto l'ambaradan che c'è in giro, perché c'è gente che lavora senza contratto, c'è il mio staff che da febbraio che non prende rimborsi spese, anche loro ci hanno famiglia. Allora capisci che tutto questo crea delle difficoltà, e sinceramente fin quanto può durare tutto questo? beh, qui parliamo veramente di un grande, uno che pensa agli stipendi degli altri e che lotta ancora soprattutto per dei diritti oltre che per una promozione o per delle partite. Un'esperienza, quella di lottare contro tutto e contro tutti, che lui ha vissuto anche altre volte, e per esempio in nazionale, quando nel 2006 l'Italia parte per il mondiale del dopo Calciopoli in un contesto assolutamente impopolare, e invece poi nel 2006 va come sappiamo, perché noi siamo sempre quelli che riescono a dare il meglio nei momenti di difficoltà. Quel mondiale finisce con la vittoria azzurra, con Gattuso titolare di un centrocampo e lui ha le chiavi di quel centrocampo con accanto Pirlo. I due giocano come sanno, Ringhio che recupera palla, ferma tutti, e Pirlo che fa le giocate che sa fare. Insomma, Gattuso rappresenta per quella nazionale quello che per esempio Oriali o Bedino Lodetti facevano nelle nazionali precedenti. E in quella squadra c'è Marco Materazzi, cioè il ragazzo che aveva cominciato con lui a Perugia, e tra i pali c'è il portiere a cui Gattuso aveva segnato il suo primo gol, Gianluigi Buffon, quando anche lui era un giovanissimo portiere nel Parma. Ed è gol! È finita! È finita! È finita! Bravi. È finita! Il cielo è azzurro sopra Berlino! Siamo campioni del mondo! 9 luglio 2006, Olympia Stadium di Berlino. L'Italia vince ai rigori contro la Francia il suo quarto mondiale e lo fa in Germania. Ricordiamoci che nel 90, Italia 90, furono i tedeschi a vincere il mondiale italiano. Bene, questa volta noi abbiamo vinto il mondiale tedesco e questa volta a allenare i nostri giocatori c'è Marcello Lippi, che crea un gruppo molto compatto che è in grado di valorizzare anche quelli che magari non avevano le doti da fuori classe. È diventato uno dei punti di riferimento più importanti di questo gruppo. Noi, tutti hanno sempre detto che l'Italia ha saputo trovare delle grandi motivazioni perché era appena scoppiato il caso di Calciopoli. È vero, questo gruppo ha saputo trovare delle grandi motivazioni, ma perché in due anni era cresciuto tantissimo questo gruppo. Era cresciuto come compattezza, era cresciuto come consapevolezza di forza, era cresciuto come senso di appartenenza. A fare tutto questo avevano partecipato dei giocatori che avevano, oltre ad avere grandi qualità tecniche, ma soprattutto avevano grandi qualità orarie, e uno di questi sicuramente era Rino Gattuso. E noi l'abbiamo visto tante volte con la maglia prima dei Rangers, ma soprattutto del Milan, e con la maglia azzurra l'abbiamo visto andare a guardare fisso negli occhi arbitri anche autorevoli provenienti da diverse parti del mondo, l'abbiamo visto combattere per conquistare palloni che magari sembravano non determinanti ma che invece lo erano, ha sospinto spesso la sua squadra nei momenti in cui la situazione si faceva difficile, ce lo ricordiamo quando si avvicina a Lippi e gli urla in faccia: se molli adesso ti ammazzo, perché sapeva che Lippi aveva manifestato l'idea di lasciare dopo il mondiale, cosa che fece tornando poi con un mondiale molto meno fortunato 4 anni dopo. Ma comunque per Rino Gattuso la nazionale è diventata una seconda famiglia, quella con la quale poter ridere, poter scherzare, soffrire, arrabbiarsi, combattere. Questo è un successo straordinariamente bello perché è stato straordinariamente sofferto. Qual è stato il segreto di questa squadra? Come sono brutto. Guarda, scusa, me. Aspetta, perché ti applaudiamo, Rino. Sei un fenomeno. C'è una moquette in faccia. Beh, questa è una delle grandi forze di Rino, la sua naturalezza, la sua genuinità, è una frase che fa tenerezza, uno che vince il mondiale e dice una cosa del genere pochi secondi dopo, risponde a modo suo, senza neanche ascoltare le domande di Enrico Variale, perché lui è un campione anche di semplicità, lui ha portato l'entusiasmo di un bambino dentro al calcio. E prima di tutto ringrazia Marco Tardelli, un campione che ha vinto un mondiale prima di lui e che è stato un mito della sua infanzia. Quando uno è da tanti anni fuori di casa, Noi forse questo non lo possiamo capire, perché nella vita abbiamo tutto, tiriamo due calci a pallone, siamo ricchi, abbiamo successo, però uno che va a lavorare per 1000 euro o 1200 euro al mese fuori di casa, 1000 km di distanza, non è facile. Ecco, a noi piacciono i calciatori così, quelli come Rino Gattuso, che ha avuto una carriera piena di colpi d'ala, che poteva guardare la gente dall'alto in basso e che invece ha affrontato sempre la vita con l'umiltà di chi è stato educato ad avere il rispetto per le origini, per la sua terra, il rispetto per la fatica, per la lotta, per la volontà di dare l'impossibile pur di inseguire un sogno. E noi vi aspettiamo con altre storie e vi chiediamo di segnalare al Falco il Gabbiano @radio24.it se anche voi conoscete una storia che secondo voi merita di essere raccontata, oppure seguitemi, interagite con me sui miei, sui nostri social, Facebook, Twitter, insomma, se volete, lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.